get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a tutte e ben ritrovate. Quella che sta per iniziare è la nostra 223esima trasmissione e, come già preannunciato durante il nostro precedente appuntamento, utilizzeremo ancora parte degli interventi che abbiamo registrato durante la nostra ultima iniziativa alla Casa Internazionale della Donna il 25 aprile scorso. In occasione della festa della liberazione abbiamo organizzato un incontro che prevedeva una mostra fotografica sul campo di sterminio per donne di Ravensbrück e l'ascolto di una sopravvissuta all'olocausto. Cose queste che abbiamo già ascoltato durante la precedente trasmissione qui a Radio Onda Rossa. Ma noi del coordinamento lesbiche romane avevamo intenzione, con l'iniziativa fatta, di porre l'accento e l'attenzione sulla necessità di contestualizzare questi avvenimenti andando ad individuare una sorta di aggancio tra l'olocausto e i giorni d'oggi. Questo perché? Perché secondo noi è necessario che il ricordo di ciò che è stato non ci porti solo a rammentare l'aspetto drammatico e brutto di ciò che è stato, ma ci aiuti anche a riconoscere le dinamiche che nascono da ideologie e meccanismi pericolosi che ancora oggi sono molto attuali, sono vivi e vegeti e godono di ottima salute. Ci siamo riproposte di effettuare questa operazione nell'analizzare la storia utilizzando la lettura di genere. L'uso della genealogia tra passato e presente ci permette di riconoscere gli attuali campi di concentramento e, per carità, senza voler affatto offendere o proporre improbabili e assurdi paragoni con la sofferenza ed il dolore di chi è stato nei veri campi di concentramento. Questa definizione nasce soltanto come un'associazione di idee. Però il ricordarsi di ricordare ci deve anche abituare a non abbassare mai la guardia. Bene, allora ora facciamo un brevissimo stacco musicale e poi inizieremo con le registrazioni. Allora, insegna letteratura italiana e storia della letteratura alla Sapienza. Si occupa ormai da molti anni di Women and Gender Studies, io non so l'inglese, penso che ve ne sarete accorti. Ha scritto saggi teorici sulla scrittura delle donne e anche su testi e figure di autrici antiche e contemporanee. Ora, questo è il suo aspetto ufficiale, ma oltre a tutto questo c'è un'altra sua caratteristica che la rende a noi del CLR una donna molto cara. Monica infatti ha condiviso con noi una parte del nostro percorso politico, l'ha condiviso perché le nostre corde suonavano all'unisono sul modo di vedere le cose, sulle strategie, nell'individuazione degli obiettivi da perseguire e via dicendo. Ha fatto parte del CLR fino a che i suoi innumerevoli impegni l'hanno portata a fare altro e quindi è stato un bel momento significativo incontrarla di nuovo per organizzare l'incontro di stasera. Abbiamo parlato una serata in maniera, a mio avviso, bellissima. Abbiamo potuto continuare quindi a ragionare insieme. Capite bene quindi che è un piacere doppio averle qui fra noi e quindi con estremo piacere le passo la parola. Grazie, il piacere naturalmente è anche mio, grandissimo, ci tenevo in particolare, che tu ricordaste che assolutamente ho fatto parte del CLR, in fondo io penso di farne parte ancora, nel senso che il mio cuore è sempre qui e cerco il più possibile di seguire, di chiacchierare con voi, di fare politica nel modo in cui posso e so anche attraverso l'università. Dunque sì, è un'occasione molto, mi emoziona particolarmente stare qui questa sera, non solo perché faccio ancora qualcosa con CLR, ma perché sono fra compagne che hanno per me un valore di relazione, un valore di crescita fondamentale, che credo poi sia un motivo fondamentale per cui bisogna continuare a ricordare e a fare iniziative come queste. Grazie a una storia straordinaria, sentirla mi ha fatto provare un modo insieme invidia di desiderio di condividere il tanto di esperienza, che credo sia forse l'elemento che faccia veramente la differenza nell'insegnamento e nella trasmissione, cioè poter trasmettere l'esperienza insieme al sapere. Tra i tanti canoni, cioè il sapere dell'esperienza, no? Tra i tanti canoni che ha la nostra cultura maschilista, sessista, occidentale, c'è anche questo, che si insegna il sapere, l'esperienza no. L'esperienza fa parte di qualcosa di subordinato e possibilmente diciamo di inferiore e più semplice, no? Che non c'è bisogno di insegnare. Invece penso che la cultura, le culture, i saperi delle donne hanno rimesso insieme questa cosa fondamentale. L'esperienza è un dato di sapere. Ed è un dato di sapere che è a monte, perché il corpo è a monte, l'identità è a monte. E estrometterlo dal sapere significa avere un sapere dimidiato, come di fatto è stato finora. Quindi, innanzitutto, questo è, diciamo, degli elementi fondamentali, credo, di riportare il discorso sul dolore, che è fondamentalmente esperienza. Poi su questo magari dirò qualcosa di un'esperienza che si deposita, secondo me. L'altro grande piacere è di essere qui accanto ad Antonella, con cui abbiamo condiviso un percorso di crescita, almeno per me, non so per lei. Per me è stato il primo incontro con la Shoah e l'Olocausto, e con la Shoah e l'Olocausto delle donne, perché Antonella poi, insomma, spieghiamo dopo, ma io l'anticipo perché per me è stata veramente un'esperienza eccezionale. Ha scritto una tesi molto bella di dottorato, che è discusso, quindi ormai è andato bene, lo posso dire, fuori da ogni cosa, sul campo di Ravensbrück e sulle donne che sono state in quel campo. Io ho fatto molta resistenza all'inizio ad accettare questa cosa perché so che è una grande responsabilità, però appunto è stata un'esperienza di crescita per me molto importante, veramente uno di quei casi in cui l'insegnamento è un processo di insegnamento-apprendimento. E quindi sono contenta anche di poter condividere questo sguardo insieme a loro e insieme naturalmente alle compagne. Voglio partire da un punto che ha detto Rosina iniziando, no? Noi abbiamo il dovere di ricordare. Ecco, io penso che l'elemento fondamentale della trasmissione sia questo, non è tanto il contenuto di quello che si trasmette, quanto questo piccolissimo, diciamo, apporto che uno può dare per l'insegnamento, cioè che noi abbiamo una grande responsabilità da questo punto di vista. D'altronde è impossibile non ricordare, perché io sono convinta, questo però veramente d'accordo con Graziella, che il corpo abbia una memoria, che la ferita inflitta una volta, l'ho detto, al corpo di una donna è stata inflitta una volta per sempre al corpo di tutte le donne, e quindi noi possiamo averlo latente, possiamo far finta o non averne consapevolezza fino in fondo, però quell'esperienza di dolore si è depositata ed è una parte della nostra identità, quindi è una cosa a cui non possiamo neanche volendo rinunciare, anche se a volte vorremmo rinunciare perché è una cosa che comporta dolore e sofferenza. Quindi trasmettere il sapere vuol dire anche questo, vuol dire io ci provo a fare un insegnamento, non ho detto che ci riesca, non ci riesco quasi mai forse, insomma trasmettere il fatto che il sapere che noi abbiamo è il frutto di un'esperienza che è stata estromessa, che ciò che ci viene raccontato, ciò che ci è stato raccontato, in realtà è una cancellazione, ed è una cancellazione nel nostro caso specifico duplice, perché donne, perché lesbiche, che probabilmente viene doppiamente cancellato, e oggi direi che ha accennato una tripla volta, cioè tre volte in più, perché in effetti quello che viene contrabbandato è che le donne sono molto più libere, no? Questo è uno degli stereotipi in cui oggi bisogna fare particolare attenzione, molto di più rispetto al far passare l'idea che le donne hanno dei diritti, eccetera, eccetera, no? Quando si insegna, le ragazze e i ragazzi sono assolutamente convinti di essere liberi, no? E allora la cosa difficile è aiutare a decostruire questa certezza, invece di far vedere come in realtà, questo sono totalmente ancora una volta d'accordo con Graziella, siamo in un altro campo di concentramento, in cui i modi naturalmente sono profondamente diversi, il dolore delle compagne che hanno vissuto l'olocausto è assolutamente inenarrabile e irripercorribile per noi, ma in cui la capacità di cancellazione è molto più forte da un certo punto di vista, nel senso che è molto più subdola, quindi l'operazione di decostruzione è molto, ma molto più difficile. E sicuramente il primo passo è ricordare ciò che è stato. Quindi quando appunto ne parlavamo insieme, qualcuno dice hanno ancora di nuovo queste cose, lo dicono anche a me quando normalmente insegno, soprattutto perché insegno cose molto antiche anche, antiche proprio nel senso vecchio, dei grandi del termine, il problema invece è capire che e riuscire a far capire che quella cancellazione è una cancellazione che in realtà non tocca un dato di fondo, cioè che tutto questo è depositato, tutto questo dolore è depositato in maniera completa nella nostra identità, e quindi noi non possiamo eliminarlo non ci consente di toccare veramente la natura del sapere, un sapere che sia completo, che non tenga fuori una parte di chi quel sapere in realtà l'ha prodotto sul proprio corpo e sulla propria sofferenza. Quindi, per esempio, una delle operazioni più complicate è far sopravvivere, no? La propria identità a che cosa? Intanto agli stereotipi, che sono infiniti, tra cui appunto quello siamo più liberi, no? Uno dei più recenti, ma anche le accettazioni effettive. Parlavamo l'altra volta del tentativo che c'è stato nei libri di storia di cancellare, no? Determinate elementi che come dire, si erano surrettiziamente introdotti, no? secondo la tesi dominante, e naturalmente questo non andava a toccare già tutto ciò che quella narrazione comunque nascondeva e che in larga parte riguardava appunto il sapere e il dolore delle donne. Allora, questa operazione di sopravvivenza allo stereotipo, alla cancellazione, agli atteggiamenti storici che cercano di riraccontare, si può, secondo me, non diciamo eliminare, diciamo contrastare soltanto con la narrazione. Adesso è diventato molto di moda, anche perché insomma la filosofia si è impossessata di questo concetto, che è un concetto invece che è sempre stato avanzato nella cultura delle donne, no? E cioè che fondamentalmente la trasmissione è narrazione, quindi è interpretazione di qualcosa, no? E quindi riproduzione attraverso l'esperienza. A me ha colpito moltissimo una cosa che ho letto nei materiali preparatori di questa mostra, Graziella mi correggerà se è sbagliato, e cioè che i materiali in gran parte sono in rete, quelli che sono stati presi, almeno ho letto, no, faccio. Foto della mostra? Sì, no, le foto sono in rete. Allora, questo è un elemento per me molto significativo ed è tipico, tipico non voglio dire perché sembra di diminutivo, è la ricchezza della narrazione delle donne, cioè il potere che hanno le donne ricollocando la propria storia, riattraversandola, di ridare significato, uso sempre di semantizzato, stavolta però non l'ho usato, ridare significato, cioè costruire una narrazione in cui chi racconta aggiunge sempre, pur senza perdere una parte naturalmente dell'esperienza, questa come dire, rielaborazione dell'esperienza delle altre, che è l'arricchimento fondamentale della trasmissione del sapere. La narrazione orale è proprio tipica. Esattamente. Beh, naturalmente, quindi una cosa che insomma tutte sapete, condividiamo largamente l'esperienza femminista, la rivalutazione per esempio in ambito storico delle fonti orali, quelle fonti che appunto sono state appunto indicate come false, tendenziose, no? nella ricostruzione per esempio della liberazione, della guerra partigiana, eccetera, eccetera, si deve al grande movimento delle storiche femministe che hanno ricominciato da in giro con il registratore a riprendere e a far proprie le narrazioni. Quindi la centralità che ha assunto di nuovo la narrazione orale si deve esattamente a questa grandissima esperienza di relazione, cioè la narrazione ha in sé la relazione, questo è l'elemento fondamentale, si racconta qualcuno che ascolta e che riprende, scambia il testimone della narrazione, il movimento ritmo circolare, e questo direi che è l'elemento fondamentale del passaggio di esperienze, del passaggio del sapere, o dovrebbe esserlo almeno nel tentativo di costruire un sapere che sia più consapevole della sua complessità. Quindi l'elemento fondamentale, un altro termine che io metto sempre in relazione con trasmissione, sa che sto diventando vecchia perché continuo a ripetere gli stessi concetti, quindi bisognerà che mi rinnovi anch'io, cultivi un po' di cose vecchie in modo da far posto alle nuove, ed è la genealogia, no? Noi siamo legati da un filo indissolubile al dolore di tutte le donne, io non sono convinta che il dolore non è un genere. È una delle cose, cioè il dolore come prima reazione sì, sicuramente non è genere. Però i dolori sono diversi, i dolori degli uomini sono diversi da quelli delle donne, il dolore delle donne ha una radice profonda nel modo in cui da sempre è stato guardato, maltrattato e abusato il loro corpo. E io non credo che ai uomini succeda questo, forse in alcuni casi può succedere, non lo so, però lo parlo da donna. Secondo me non nella stessa misura, quindi quel senso che noi percepiamo subito nelle foto, no? In cui il corpo, l'esibizione del corpo della donna, che viene fatto da un uomo, e che non è soltanto, un desiderio di umiliazione, è qualcosa di peggio, è proprio un desiderio di rubare l'identità profondamente, anche un momento in cui il pudore era di un certo tipo, eccetera, tutto questo è giustissimo, è proprio il fatto di considerare terra di conquista, no? Assolutamente a loro disposizione, cioè non c'è bisogno di chiedere nessuna autorizzazione. È un atteggiamento credo che si abbia soltanto nella storia sul corpo delle donne, no? E anche oggi succede, certamente anche a me, quando ce la siamo dette 20 milioni di volte, ogni volta che devono fare una ripresa politica sullo sfondo c'è il ratto d'Europa, no? Perché questa è la verità, o c'è il ratto del sapere, cioè comunque la storia politica dell'uomo comincia con uno stupro. Quindi prima del possesso sulla terra c'è il possesso sul corpo della donna. Ecco, questo va trasmesso. Cioè, questo va insegnato perché non si può dimenticare. Non si può dimenticare in nessuna delle forme in cui si manifesta. Ed è una cosa che è talmente depositata nella nostra esperienza che credo sia, assolutamente impossibile non leggere nelle nostre narrazioni. E quindi ringrazio di questo grande dono che mi è stato dato, di questa narrazione terribile che è la mostra fotografica, ma anche di questo ulteriore granello di esperienze e di sapere che si è depositato e che spero mi dia la forza di continuare a trasmettere e a costruire genealogia. non ha più senso, no, non poter gridare, accoltellare un pensiero, spegnerlo, soffocarlo, farlo imprigionare, non ha più senso, no, rinchiudere la rabbia, libera le mani, apri quella gabbia. Dopo aver ascoltato la canzone di Mariella Nava, Il nodo, la gabbia, il seme, proseguiamo con l'argomento della trasmissione di oggi, ascoltando l'intervento di Antonella Petricone. Due parole anche su Antonella. Dunque, nasce e vive a Roma, si laurea in scienze umanistiche nel 2003 con una tesi sul carteggio d'amore tra Sibilla Leramo e Lina Poletti. Ha portato a termine un dottorato di ricerca, come diceva giustamente prima Monica, storia delle scritture femminili, con una tesi sulla memoria dei corpi, i volti della violenza, tra vissuti e narrazioni, in dialogo tra Etty Hillesum e le donne sopravvissute della Shoah. È socia fondatrice di BeFree, cooperativa contro tratta, violenza e discriminazione, e lavora come operatrice sociale in un centro per donne immigrate in difficoltà. Ha frequentato il master di primo livello in formatori esperti in pari opportunità, studi e identità di genere presso l'Università Roma 3. Prego. E innanzitutto grazie alle compagne del CDR che mi hanno invitata a questo incontro molto molto importante, grazie a Monica Cristina Storini che sempre come dire, mi riconosce in un lavoro che abbiamo fatto insieme, quindi come dire, no? Dà il senso della trasmissione, che lei in questo senso lo ha dato a me concretamente nel momento in cui abbiamo condiviso una trasmissione e abbiamo creato un sapere a partire dalla trasmissione delle donne. E grazie anche a Graziella, perché mi ha dato degli stimoli enormi. Vorrei darvi appunto delle suggestioni rispetto ad un lavoro di ricerca che ho fatto, che ho concluso, una ricerca di una tesi sulle donne sopravvissute alla Shoah, in particolar modo una tesi sul campo di Ravensbrück, che forse come molte di voi sapranno è stato un campo prevalentemente femminile, quindi un campo che ha ospitato solo donne e bambini. Vi consiglio di andarla a visitare, perché in particolar modo il campo di Ravensbrück, che è rimasto forse un campo veramente un po' abbandonato, forse non a caso, rispetto a campi come Auschwitz, che sono diventati dei musei veri e propri, e quindi per questo magari va visto a maggior ragione, per quel senso di abbandono che trasmette in effetti ha a che fare con la storia di Ravensbrück. Prima di arrivare a Ravensbrück parto dall'origine di questo lavoro che io ho fatto, in modo che possiate condividere insieme a me anche delle dei punti importanti della trasmissione della storia delle donne e del modo in cui questa trasmissione ha trovato degli impedimenti forti che non hanno permesso poi a delle donne di raccontarsi come avrebbero voluto fare se fossero sopravvissute o come non hanno fatto anche le sopravvissute. Quelle che sono tornate avrebbero potuto dire di più, avrebbero potuto raccontare di più la loro storia, ma non l'hanno fatto per tutta una serie di impedimenti che adesso vorrei cercare con voi di analizzare, perché è importante ricostruire una storia, come dire, sottoposta ad un silenzio, una storia che ha avuto a che fare con un vuoto storiografico, culturale, politico, sociale, quindi che ha a che fare anche con quello che si diceva prima rispetto alla responsabilità politica, rispetto alla responsabilità civica di un paese che ancora non ha fatto i conti con la sua storia passata, l'Italia. Non ha fatto i conti con la sua storia di colonialismo, non ha fatto i conti con la sua storia fascista, men che mai ha fatto i conti con una storia di donne che non sono state raccontate, per cui insomma, le sovrastrutture sono tante, le cose da smontare sono tante. Io provo a darvi qualche suggestione. Allora, sono partita, parto da me, come mi ha insegnato il femminismo. Ho deciso di fare questo lavoro sulle donne deportate perché per molti anni ho lavorato all'interno di un centro di accoglienza per donne vittime di violenza e lavorando con donne vittime di violenza mi sono resa conto di quanto sia importante per le donne riconoscersi in una collettività e quindi riconoscere in uno spazio protetto che permetta a loro di nominare il dolore che hanno vissuto. E in questo spazio di accoglienza, dicevo, le donne riescono a nominare il dolore che hanno vissuto. Questo potere della parola vuol dire tanto, significa moltissimo, soprattutto per le donne e soprattutto per la loro storia. Perché? Perché la parola delle donne, da che ce ne ricordiamo, è stata da sempre in qualche modo dissimulata, mistificata, annullata, soffocata, ed è proprio la mancanza di una storia delle donne, insomma tutta una serie di mancanze e di vuoti hanno a che fare con questa parola che non è stata trasmessa, che non ha avuto la possibilità di uscire fuori, di dirsi, di raccontarsi, nei modi, nelle modalità e nelle forme in cui le donne potevano crearla, realizzarla. E quindi perché dalla mia esperienza dei centri sono arrivata a un lavoro sulle donne deportate durante la Shoah? Mi sono resa conto che la difficoltà a prendere parola, quindi la difficoltà a lasciare testimonianza di sé, quello che a molte non l'hanno potuto fare anche perché non hanno trovato non si sono trovate in una condizione economica, politica, sociale, culturale, le accezioni sono tante, tale per cui questa parola fosse accolta. Quindi molte donne non hanno parlato perché sono state vittime di una discriminazione che ha avuto a che fare con la loro identità sessuata, quindi con il fatto che fossero donne. E questo perché è facile immaginarlo se pensiamo che le poche sopravvissute ai campi hanno trovato al loro ritorno a casa una situazione esistenziale tragica, perché naturalmente erano donne che in qualche modo, già solo per il fatto di essere donne, andavano incontro a delle stigmatizzazioni e a delle discriminazioni che avevano a che fare con sono donne che sono tornate, quindi si sono salvate, perché si sono salvate, cosa avranno fatto per essersi salvate, come sono sopravvissute. E se poi in particolar modo erano donne politiche, quindi donne che sopravvissute e deportate per motivi politici, ancora di più lo stigma era forte. Perché? Perché le deportate politiche erano le cosiddette appunto partigiane, quindi quelle donne che si erano immischiate in cose da uomini, quindi avevano osato affrontare una moralità allora dominante che voleva naturalmente che fossero gli uomini a occuparsi della guerra, che fossero gli uomini a poter fondare il movimento di resistenza e di liberazione. Quindi le donne, come dire, già solo per questa, per aver ovviato a questo status sociale che era loro consono, già solo per questo venivano condannate. Quindi le resistenze furono tante, e voi potete immaginare che cosa significava per una donna che tornava da un'esperienza di violenza tale come quella che aveva incontrato nel campo, quindi sopravvissuta a una violenza di quel tipo, sottoposta a ogni tipo di vessazione, sottoposta a ogni tipo di ferita nel proprio corpo e nella propria identità di donna. Che cosa poteva significare per una donna che proveniva da quel dolore, come dire, portare il suo dolore in un contesto che già le era alieno, prima ancora che lei ci mettesse piede, cioè, come dire, un contesto esattamente ostile, prima ancora che questa donna avesse la possibilità di spiegare da dove venisse e che cosa portasse con sé e qual era stata la sua esperienza di deportazione e di prigionia. In un contesto del genere chiunque sarebbe rimasta in silenzio, chiunque di noi sarebbe rimasta in silenzio, perché non era facile prendere la parola e poter dire: io sono stata violentata, sono stata stuprata, sono stata fatta oggetto di violenza, perché donna innanzitutto, e anche poi per altri motivi che comunque, come dire, non presupponevano che questa violenza si fosse meritata di più rispetto ad altre situazioni. E questo indistintamente l'hanno provato donne che sono state deportate per motivi, tra virgolette, di religione ebraica, e donne che sono state deportate perché politiche. Io mi sono occupata principalmente delle donne politiche, però chiaramente quando parliamo di deportazione sarebbe necessario poter parlare di tutte le forme di deportazione che ci sono state, quindi non solo delle donne politiche ma anche delle donne ebree, di cui comunque in buona parte si parla, ma delle donne rom, delle donne zingare, delle donne lesbiche, quindi tutte le donne che hanno subito delle violenze. Purtroppo spesso questo non si fa, e anche questa è una mancanza, è una mancata responsabilità all'argomento. Mi sono resa conto di quanto fosse importante ridare parola e quindi ridare voce a quelle donne che questa parola e questa voce non hanno avuto modo di trasmetterla. E sono partita da una lettura che per me è stata una chiave importantissima, quindi la lettura del genere. Quindi perché leggere la Shoah con la lente del genere? Perché? Perché naturalmente la discriminazione contro le donne nell'ambito del regime nazista non è stata una discriminazione rivolta alle donne in quanto donne, cioè la discriminazione, e quindi poi la deportazione nei campi è avvenuta indifferentemente se si fosse donne o uomini, questo sì, questo è vero, ma andare a cercare la specificità di genere ci permette di dare senso e quindi dare valore a quelli che sono stati i vissuti differenti di uomini e donne all'interno dei campi. E perché è importante tener conto dei vissuti differenti? Perché è vero che le donne non venivano deportate in quanto appartenenti al genere femminile, ma è anche vero che poi nelle modalità e nelle maniere in cui le donne venivano torturate si agiva una differenza di genere, per cui chiaramente una lettura di genere è necessaria già solo per poter dare autenticità e quindi legittimità a quella che è stata un'esperienza singolare, che non toglie nulla al dolore riconosciuto di entrambi i generi, non toglie nulla a un senso chiaramente universale della sofferenza, ma che anzi la rafforza ancora di più, perché è proprio nelle differenze che i vissuti e le storie di uomini e donne possono essere ancora di più messi in luce, e quindi anzi semmai la differenza rende ancora più giustizia al valore di una testimonianza, quindi non toglie nulla. E perché le donne venivano quindi discriminate nelle modalità con cui si procedeva a torturarle, a violentarle, a far loro violenza di ogni tipo? Perché naturalmente all'interno dei campi si riproduceva quella struttura gerarchica propria della società nazista, che era naturalmente fondata sulla discriminazione sessuale. Quindi si riproducevano quelle modalità di relazione tra i generi che al di fuori dei campi erano proprie della società in cui uomini e donne vivevano in quel periodo, in quegli anni, per cui già a monte, come dire, la discriminazione c'era, perché veniva agita dalla società patriarcale e sessista nazista. Quella stessa discriminazione veniva poi riportata nel campo, dove si riproducevano gli stessi ruoli sociali di uomini e donne, per cui le donne venivano chiaramente discriminate. Questo è importante dirlo, perché ci permette anche di associare, perché è importante associare l'antisemitismo con il sessismo e con il razzismo, e queste sono associazioni che bisogna tenere presenti, perché altrimenti veramente non si entra in quella che è stata una specificità della sofferenza, che, ripeto, non vuole togliere nulla alle sofferenze in generale, ma vuole semmai rafforzare ancora di più il senso di ciò che le donne hanno vissuto e che non è stato poi trasmesso, non è stato detto, per tutta una serie di motivi, primo tra cui il non accoglierle nella maniera adeguata per dar loro la possibilità di parlare di quella sofferenza, di poterla quindi nominare. Il genere, naturalmente, come sappiamo, è una categoria che è stata usata proprio per descrivere i rapporti tra uomini e donne, e quindi il rapporto tra nazismo e discriminazione sessuale ha a che fare con una storia di genere che non può essere imprescindibile. E quindi la matrice antifemminile del nazismo ha fatto sì che il regime nazista, un regime totalitario, riproducesse proprio quella discriminazione all'interno anche dei campi di sterminio. Dovete anche immaginare che chiaramente nell'ideologia nazista la donna di per sé era già strumento di discriminazione, perché era considerata inferiore, una donna ebrea era considerata un essere inferiore, perché naturalmente riproduceva una razza tra virgolette non pura, quindi una razza inferiore. Di conseguenza il genere non diventava una categoria discriminante a priori, ma lo diventava poi nel momento in cui si dava vita all'universo concentrazionario, tant'è vero che nel campo di Ravensbrück, che forse ancora di più è evidente questa cosa, nel campo di Ravensbrück sono state deportate solo donne. Elisa Springer scrive: ricordo ancora con orrore il nostro arrivo ad Auschwitz-Birkenau, quando, dopo la selezione, ci spogliarono integralmente e procedettero alla depilazione totale, obbligandoci a stare a gambe spalancate e braccia aperte. Ebbi un senso di vergogna tale in quel momento da dispiacermi di non essere stata avviata alle camere a gas, come tante altre donne che erano arrivate quel giorno con me. E questo ha a che fare con una storia di genere. Edith Brooke scrive: la disinfestazione era uno degli eventi più umilianti. Tutte nude, in fila, tremanti, diventavano bersagli di sguardi sprezzanti, risate sfrenate, gara di sputi tra i soldati sui capezzoli, e non di rado oggetto di scherni con dei bastoni che frugavano nei nostri corpi. Questo ha a che fare con una storia di genere. Grazie. Ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane all'interno dello spazio autogestito femminista e lesbico di Radio Onda Rossa sugli 87-900 MHz. Rammentiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per iniziare ad ascoltarci. Salutiamo tutte le donne che ci accompagnano ascoltando Radio Onda Rossa e la nostra trasmissione, rendendo possibile così la prosecuzione della nostra avventura dietro questi liberi microfoni. Se ci state ascoltando via internet, ci farebbe piacere sapere da dove ci state ascoltando. Inoltre potete fare un graditissimo trillino che significa far squillare il telefono di Radio Onda Rossa componendolo 06 49 17 50, lasciar squillare una sola volta e poi riagganciare e noi capiremo che ci state ascoltando. L'altro mezzo che avete è quello degli SMS, per cui ripetiamo il cellulare 338 41 46 682. E ancora potete scriverci una mail al nostro indirizzo di posta elettronica che è contatti@clrbp.it. Potete anche telefonarci in sede allo 06 68 64201 e lasciare un messaggio nella segreteria o se chiamate il giovedì sera potete parlare direttamente con noi perché noi siamo in sede a partire dalle 9:30. E non finisce qui perché per le amanti della carta potete scriverci una lettera indirizzandola a CLR presso Casa Internazionale delle Donne via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. A questo punto ripetiamo ancora il telefono della radio che è 06 49 17 50 e il nostro cellulare che ricordo rimarrà attivo fino alla fine della nostra trasmissione che è 338 41 46 682. Has nacido oprimida, quizás tu conciencia ha dormido, tu vientre han estado violando, tus ansias han quedado vacías. Luchar fue tu verbo olvidado. Miraste horizontes perdidos, mujer, te has estado entregando a ciegas como el aire en el llano. Esaurite le registrazioni dell'iniziativa di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, adesso vi leggeremo i due comunicati che il CLR ha prodotto in occasione del Roma Pride 2009. Cioè il primo che ascolterete è il comunicato di adesione. Il secondo invece è il comunicato di solidarietà, visto che non è ancora a tutt'oggi stata definita è stato definito ancora il percorso gentilmente concesso per lo svolgersi del Pride. Ok, allora buon ascolto e vado con la lettura. Non si abbatte la casa del padrone con gli strumenti del padrone. Anche quest'anno intendiamo partecipare a Roma Pride, ma con un sentimento di stanchezza. Per il terzo anno consecutivo, la piattaforma politica ripropone la battaglia dei diritti civili, incentrata sulla rivendicazione al godimento dei privilegi, privilegi riconosciuti, peraltro, solo a quegli eterosessuali che decidono di stare all'interno del patto sociale indicato dal patriarcato come l'unico. L'unica strada, il matrimonio, riconosciuto dallo Stato e santificato dal Vaticano. Crediamo che questa via non porti a risultati politici di parità, dignità e laicità, ma semmai aumenti la forbice della disuguaglianza. La famiglia, in tutte le forme e culture, continua ad essere il luogo dove si sviluppano le disuguaglianze e dove i privilegi vengono goduti dal capofamiglia, meglio se bianco, cattolico ed europeo, ma in questo caso va bene anche nero, musulmano e terzomondista. Non vogliamo elencare per l'ennesima volta l'inferno che la famiglia in quanto tale rappresenta per le donne e dunque non siamo favorevoli a proposte di gironi infernali alternativi per le lesbiche, per le donne e per nessun individuo. Riteniamo inoltre che tutti i diritti che si porta dietro l'istituto matrimoniale possano essere rivendicati al di fuori di esso e su principi di scelta. Diciamo dunque no alla coppia come luogo di privilegio. Non si abbatte la casa del padrone con gli strumenti del padrone, Audre Lorde. Proponiamo una legge di iniziativa popolare per rendere libera, ad esempio, la destinazione della reversibilità della pensione, i cui contributi versati allo Stato riguardano anche chi in coppia non ci sta, dunque le singole e i singoli. E se la famiglia si svuota dei finti privilegi distribuiti a tutti i componenti, mentre lo sono solo per i capofamiglia maschi e padri padroni, finirà col cadere su se stessa svuotata. Il sentimento di rabbia che ci obbliga moralmente a scendere in piazza è dovuto alla dura repressione verso il movimento LGBT da parte delle forze reazionarie che agiscono nel paese. Queste ultime non solo non hanno accolto le richieste dei diritti civili, ma hanno coscientemente messo in atto la repressione. Condanniamo decisamente l'ondata repressiva messa in atto contro le lesbiche, trans, gay, che si è manifestata e con i rastrellamenti notturni ai danni delle trans e con aggressioni lesbofobiche e omofobiche. Non sono aggressioni puramente casuali quelle che avvengono. Dietro c'è l'accondiscendenza di alcune forze politiche e di parte della società che nega proprio il diritto ad esistere e quindi il diritto ad ogni rivendicazione a chi non è omologato al resto della popolazione, sia esso lesbica, gay, immigrato, donna o trans. Per questo scendiamo in piazza, solidali con tutte le forze del movimento LGBT contro ogni repressione, denunciando la tratta delle donne ad opera di maschi politici di potere. Scendiamo in piazza contro la famiglia clericale e fascista, contro il mercato dei corpi, contro il sessismo, padre del razzismo, fascismo, clericalismo, berlusconismo, per affermare la laicità delle nostre vite, per l'autodeterminazione di tutte e di tutti, per liberarci tutte e tutti dalle gabbie del pensiero unico, per individuare percorsi alternativi e non obbligatori, per il diritto di cittadinanza dei e delle migranti. Coordinamento Lesbiche Romane, Roma, 1 giugno 2009. Let's go, girls! Yeah. like a woman. Girls need a break tonight. We're gonna take the chance to get out on the town. We don't need romance, we only wanna dance. We're gonna lay our head down. The best thing about being a woman is the prerogative to have a little money. Oh, oh, oh, we're totally crazy. Forget I'm a lady. Men should short skirts. Che vi sto per leggere adesso invece è il comunicato di solidarietà al Pride del 2009 che abbiamo fatto come coordinamento lesbiche romane. Apprendiamo con disappunto, ma senza stupore, che a tutt'oggi non esiste ancora un percorso certo per il Roma Pride del 2009. È evidente che le motivazioni addotte dal comune e questura sono pretestuose. Il vero motivo che giustifica il rifiuto è il disprezzo e l'intolleranza che animano la nuova amministrazione comunale e il governo di questo paese che, purtroppo, troppo spesso confonde la sua anima istituzionale con la sua anima religiosa e nera. Condanniamo fermamente questo atteggiamento violento e lesbo-omo-transfobico che non fa altro che elevare e alzare il livello dell'odio fino al parossismo. Non dimentichiamo le orrende retate contro le trans avvenute sotto gli occhi di onesti cittadini muniti di videocamere e telefonini pronti ad immortalare la mattanza. Oppure le lesbiche stuprate con intento correttivo, che tanto riportano la memoria a fatti che hanno funestato la nostra recente storia del Novecento. I fascismi ritornano, hanno facce diverse ma medesimi intenti. E qui i fatti. Lo scorso anno, il 7 giugno, Piazza San Giovanni è stata negata per lo svolgersi di una funzione religiosa, un coro. Quest'anno, per il 13 giugno, il calendario ci propone un nuovo santo e dunque la piazza viene nuovamente legata. È una storia senza fine. Ogni giorno sul calendario c'è un santo diverso da glorificare, e non diverso, tra virgolette. Sorge legittima una domanda: ma da quando Roma è stata annessa allo Stato del Vaticano? Perché in questo caso il permesso andrebbe richiesto alle guardie svizzere, non più alla questura. E allora ci adeguiamo. Soluzione A. Sabato 13 giugno, cresima di massa di gay, lesbiche e trans, e non abbiamo detto matrimoni, badate bene, con occupazione della chiesa di Sant'Antonio, che ama tutti, anche gli animali, e quindi il Santo Padre e Fra Alemanno non potranno dire di no. Soluzione B. sabato 13 giugno, tutte e tutti al Colosseo. Chi porta le bestie feroci? Con me sta Letizia, coordinamento lesbiche romane. Gli appuntamenti. Allora, siete tutte quante invitate alla quinta edizione di Sappho Garden. Nel cortile della Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1A, ci saranno giochi all'aperto, cena e musica sotto le stelle. Ricordiamo che l'ingresso è aperto alle sole donne e che i giochi inizieranno alle ore 19, poi alle ore 21 ci sarà la cena di finanziamento e a seguire musica e balli. Quindi, ripeto, quinta edizione di Sappho Garden ed è organizzata dal Centro Femminista Separatista, sabato 20 giugno 2009 a partire dalle ore 19. Venite numerose e ricordiamo che è aperto alle sole donne. Ciao e vi aspettiamo in tante. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops and I just can't say. What should I do? Just a little. I'm